Sulla terrazza. Buongiorno, Sara. Lorenzo, buongiorno. Come sta? Sorry? How are you? Come sta? Bene? Oh, yes, bene, grazie. Sit down and have some breakfast. Colazione? No, grazie. Non faccio mai colazione. You don't have breakfast. Nothing at all. Prendo solo un caffè e a volte mangio qualcosa più tardi, verso le 10.